Salve a tutti, io sono Jasmine, questo è Radio Big World e benvenuto a una nuova puntata di Curiosità Animate dove vi parlo dei classici Disney. Il classico di cui parleremo oggi è Il Gobbo di Notre Dame, film del 1996 ed è considerato il 34esimo classico Disney. Il film è basato sull'omonimo romanzo dell'autore ottocentesco Victor Hugo ed è considerato uno dei classici più cupi per i temi che tratta, ovvero la morte, la lussuria, il peccato. Di conseguenza il film fu anche un po' controverso. La storia è ambientata nella Parigi del Cinquecento, dove la comunità degli zingari è perseguitata, specialmente dal giudice Claude Frollo. Infatti il film inizia con un gruppo di zingari che deve fuggire e di cui una donna se ne distacca. Questa donna ha un figlio deforme che poi sarà Quasimodo. Frollo uccide la mamma di Quasimodo, però impietosito decide di adottare il bambino e di farlo crescere segregato nella soffitta di Notre Dame. Il film poi fa un flash forward di 20 anni e vediamo Quasimodo appunto cresciuto nelle soffitte di Notre Dame in completo isolamento ed è diventato un ragazzo gentile e sensibile, però costretto sempre alla vita nelle soffitte. Infatti i suoi unici amici saranno dei gargoyle animati. Decide un giorno di uscire per strada perché c'era una festa, a lui non era permesso uscire dalla cattedrale. E in questa festa, diciamo, dove ci sono vari zingari, viene però preso di mira dalla folla e viene umiliato. A salvarlo è Esmeralda, che è una gitana anche lei, che lo libera e lo aiuta. Questa cosa fa molto infuriare Frollo, che la insegue, ma lei si nasconde a Notre Dame. Febo, il capo delle guardie, era stato mandato a catturare la ragazza, però lui si rifiuta di arrestarla all'interno della chiesa e di conseguenza la lascia andare. Quasimodo quindi fa amicizia con Esmeralda e se ne innamora anche e decide di aiutarla a scappare. Lei quindi scappa, riesce a fuggire e dà a Quasimodo la mappa per l'ubicazione della famosa Corte dei Miracoli, ovvero allora a Parigi erano dei quartieri dove i vari mendicanti, i vari gitani, i vari poveri della città si riunivano la notte ed erano appunto dei quartieri nascosti. Ma Frollo, che ha sviluppato un certo attaccamento un po' strano per Esmeralda, appena scopre della sua fuga si infuria molto con Quasimodo e decide quindi di fare una caccia all'uomo per tutta la città, creando però vari subbugli. Febo capisce però gli intenti malvagi di Frollo e decide di opporsi al suo mandato. Questo però gli costerà quasi la vita, perché viene colpito da una freccia mentre tenta di fuggire. Viene salvato da Esmeralda e Quasimodo lo dovrà nascondere all'interno di Notre Dame. A questo punto Frollo, che comunque è sempre deciso a trovare e a scovare Esmeralda, bleffa Quasimodo e gli dice di aver scoperto l'ubicazione della Corte dei Miracoli e che sarebbe andato a fare appunto un'imboscata. Questa cosa non è vera perché Frollo non sapeva l'ubicazione del posto e quindi Quasimodo e Febo vogliono andare ad avvertire Esmeralda, però ovviamente questo condurrà a un'imboscata vera e propria. Esmeralda viene catturata, sta per essere messa a rogo, però Quasimodo la salva e si rifugiano a Notre Dame. Verranno inseguiti da Frollo, ma alla fine lui precipita nel tentativo di ucciderli. Il finale è un lieto fine perché Quasimodo viene elevato come eroe della città e tutti vissero felici e contenti. Ovviamente il film fu a livello di realizzazione molto dispendioso perché era un'opera molto diversa dagli altri film della Disney. Intanto i registi, che erano Gary Truesdale e Kirk Wise, sono dovuti andare per un bel po' di giorni a Parigi per fare un sopralluogo di Notre Dame, della città, per capire bene la mappa e i posti in cui ambientare il film, ma anche per poter dare un certo mood a tutto l'insieme. Inoltre, la colonna sonora è stata molto acclamata e ha vinto anche un Golden Globe e un Oscar. Benché il successo del film, gli appassionati e gli studiosi di letteratura trovarono il riadattamento della Disney troppo semplificato e il finale è completamente diverso da quello del libro. A parte queste controversie, però, la Disney creò anche un seguito del film nel 1999. E inoltre ci fu molto merchandising, anche vari musical che furono creati proprio sulle linee del cartone della Disney. E in generale, tutt'oggi, è uno dei capolavori della Disney più acclamati dalla critica. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate.